un organismo che esiste fino dal 2010 ed è stato creato alla luce della grande crisi finanziaria che ha investito alcuni stati dell'Europa negli anni scorsi. Si chiamava fino a qualche anno fa EFSF, cioè Sistema di Risorse Finanziarie Europeo, ed è un organismo che è intervenuto in alcuni paesi, non soltanto la Grecia ma anche la Spagna, l'Irlanda, Cipro, per fornire risorse quando la situazione dei debiti pubblici di quei paesi stava andando fuori controllo. È un modo anche per aggirare quelli che sono i regolamenti europei che impediscono di fatto il salvataggio diretto, di dare risorse dirette e gli aiuti agli stati? No. Anzi, è studiato proprio per questo motivo. Gli aiuti di Stato non valgono quando si parla di settore pubblico, perché nel settore pubblico tutto è statale. Il divieto di utilizzare aiuti di Stato riguarda le aziende private quando la concessione di aiuti di Stato aiuterebbe alcune aziende a discapito di altre e quindi violerebbe la concorrenza. No, il MES, che in ambito europeo si chiama ESM, cioè Sistema Meccanismo di Stabilità Europeo, è fatto apposta per poter mettere nelle mani di un organismo che è composto da membri nominati dai governi, una determinata quantità di risorse che possono essere utilizzate in due modi, o come prestiti diretti agli stati in difficoltà o come una sorta di garanzia pubblica di intervento se gli stati la richiedono. E perché allora si sta discutendo così tanto in Italia su questo organismo? La discussione è una discussione che è nata sotto un insieme di circostanze. In questo momento si discute del MES perché è in corso una riforma. Questa riforma ha tutto un insieme di contenuti, ma i principali sono sostanzialmente due. Il primo è che la nomina dei componenti, diciamo, del board, dell'assemblea che gestirà il MES viene sostanzialmente sottratta alla discussione dei parlamenti e viene attribuita ai governi, per cui non saranno più i parlamenti a poter mettere il veto sull'utilizzo del MES, ma saranno i governi attraverso i loro rappresentanti all'interno di questo di questa istituzione a decidere. La seconda cosa fondamentale che cambierà all'interno del meccanismo europeo di stabilità sarà il fatto che verranno inserite sui titoli del debito pubblico di tutti i paesi che faranno parte del MES delle clausole, le cosiddette clausole di azione collettiva, che saranno diverse da quelle che esistono già oggi. Le clausole di azione collettiva sono dei meccanismi giuridici per i quali se si vuole fare una revisione del debito di un paese e quindi sostanzialmente tagliare il debito attraverso un calo del rimborso ai titolari dei titoli di Stato o un taglio degli interessi, serve una maggioranza dei creditori per decidere questa cosa. Con le nuove clausole di azione collettiva fino ad oggi bisognava fare questo meccanismo di convocazione dei creditori e di decisione sul taglio per ciascuna emissione di titolo, quindi per ogni diversa emissione di BTP, nel caso si andasse a una ristrutturazione del debito italiano, bisognava convocare un'assemblea dei portatori del debito e arrivare a una determinata maggioranza. Un domani non sarà più così, nel senso che verranno convocati tutti coloro che detengono titoli del debito, indipendentemente da quale sia il titolo che essi possiedono, verrà fatta un'assemblea generale e in questa assemblea generale, se si raggiungerà una determinata maggioranza, si deciderà un'eventuale ristrutturazione del debito. Quindi diciamo cambia l'accountability, la responsabilità politica che viene sottratta ai parlamenti e consegnata ai governi, e cambiano i meccanismi di ristrutturazione. Quello che non cambia sono alcuni meccanismi però fondamentali, nel senso che il meccanismo europeo di stabilità potrà essere utilizzato, come è già oggi, soltanto su richiesta dei paesi. Non è che dall'esterno qualcuno può obbligare l'Italia a ristrutturare il suo debito. Questo però ha portato a una discussione che è iniziata già con il precedente governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, perché la riforma è più di un anno che è in discussione, e all'interno di questa discussione recentemente si è inserito una presa di posizione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha detto che bisogna fare molta attenzione a rivedere il MES, perché se si dà l'idea che un paese si indebolisce, si potrebbe far scatenare sostanzialmente la speculazione preventiva e costringere in questo modo, con un crollo del valore dei titoli di quel paese, all'intervento del fondo salva stati o meccanismo europeo di stabilità che dir si voglia. C'è però una questione che non viene abbastanza sottolineata ed è che ci sono soltanto 3 paesi all'interno del meccanismo europeo di stabilità che hanno praticamente un diritto di veto, anche se non è un diritto di veto esplicito. Siccome per fare decidere l'erogazione dei crediti o delle garanzie a ciascuno Stato serve una maggioranza dell'85% 1% del capitale della BCE, ed è un capitale che è diviso fra i vari paesi dell'area dell'euro in funzione della loro quota di contribuzione alla BCE. Ci sono, che è diversa da paese a paese, ci sono solo tre paesi che hanno più del 15% e che quindi sostanzialmente, se dicono di no, da soli già possono bloccare qualsiasi decisione perché non si arriva alla maggioranza dell'85. Questi tre paesi sono la Germania, la Francia e l'Italia. Quindi diciamo a questi tre paesi importanti dell'area dell'euro è consentita la possibilità di toppare qualsiasi intervento di salvaguardia. Chiedo infine un tuo parere su questa riforma. Allora, io credo innanzitutto che la polemica attuale sia una polemica pretestuosa, perché la discussione sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità è iniziata, ripeto, sotto il precedente governo che era a maggioranza Movimento 5 Stelle con la Lega. Quindi che la Lega adesso si chiami fuori dicendo di non saperne niente è abbastanza incredibile. La seconda cosa che penso è che qualsiasi titolo emesso da qualsiasi entità, che sia una società privata o un governo, comporta delle responsabilità, nel senso che tu emetti un titolo per andare a chiedere a qualcuno i suoi soldi con l'impegno a restituirglieli alla scadenza oltre a un determinato interesse che paghi nel tempo. È chiaro che se tu vai a prendere a prestito soldi di terzi sei impegnato a restituirli. La tua credibilità, fino a quando ne hai una, è quella di essere in grado di onorare i tuoi debiti. Il problema dell'Italia è che negli ultimi anni c'è stata una vera esplosione del debito pubblico che è continuata in maniera praticamente uniforme sia sotto i governi di destra che sotto i governi di centro-sinistra. L'unico governo che era riuscito a contenere il debito e a ridurlo all'inizio del periodo dell'entrata nell'euro dell'Italia, cioè circa 20 anni fa, è stato il governo Prodi. Tutti i governi successivi questo debito l'hanno sempre incrementato e attualmente siamo arrivati a una soglia che è abbastanza critica, perché è attorno al 130-140% in proporzione al nostro prodotto interno lordo, quando le regole degli accordi di Maastricht prevedevano in realtà che fosse al 60, quindi meno della metà del nostro livello attuale. È chiaro che in un'economia che non cresce come quella italiana, o anzi che va incontro a una serie di crisi con una riduzione del PIL e con una continua emissione di debito pubblico che cresce costantemente in termini assoluti, il valore del rapporto deficit-PIL, debito-PIL è sempre crescente. E questo diventa un problema. Diventa un problema perché se non si gira, interrompe in qualche modo questa spirale, prima o poi qualcuno sosterrà che il debito pubblico italiano è insostenibile. Se qualcuno sosterrà questo sarà un problema, perché la gente non si fiderà più del nostro debito e non lo comprerà, e quindi il debito potrà diventare un problema a essere rimborsato, perché oggi noi rimborsiamo il vecchio debito facendone di nuovo. Il meccanismo europeo di stabilità potrebbe essere attivato in quel caso, però solo su richiesta italiana, ma io credo che potrebbe essere anche in quell'occasione a nostro favore un'eventuale attivazione, anche se non me la auguro, perché i casi sono due. Se l'Italia non fosse in grado di gestire il suo debito, ci sono soltanto due modi di venire fuori dalla situazione: o gestire una riduzione del debito con una ristrutturazione ordinata, come si dice, cioè con un accordo con i creditori, per cui attraverso l'accordo con i creditori tu tagli il rimborso sia in termini di capitale che in termini di interessi che paghi, anche se questo creerà comunque un grossissimo problema per l'Italia, oppure, ma è peggio, andare a una ristrutturazione disordinata del debito. Ma una ristrutturazione disordinata del debito significa un default come quello dell'Argentina, e le conseguenze nel primo caso in maniera leggermente inferiore, ma nel secondo caso in maniera veramente pesante, sarebbero devastanti per l'Italia.